Allora, di fronte a questo, capite bene che parlare di coppia oggi ci vuole una bella faccia, Ecco. Quindi, qui dentro cominciamo a parlare di verità. Quindi, coloro di voi che si riconoscono la super personalità depressa, sappiano che questo è solo il punto dell'iceberg che conoscono. Dentro, se andiamo a cercare, c'è il peggior stronzo dell'universo. Quello che loro credono di vedere sempre fuori, c'è dentro. Quindi con i depressi non c'è nessuno sconto. Poverini, soffrono. Non mica solo loro, fanno soffrire tutti quelli intorno, esattamente come i narcisisti. I narcisisti a volte sono più abili perché diventano dirigenti e quindi possono spargere i loro benefici a tante persone. Quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di consapevolezza umana. Allora io non credo che questo tema sia riservato agli psicologi, mi rifiuto di crederlo. Non c'è una categoria di esseri umani che ha il diritto di avere il monopolio su queste cose che sono il centro della vita. Abbiamo diritto tutti di prendere la parola su queste cose. Perché sono il centro dell'esistenza. Se no sarebbe come dire che possono mettere al mondo figli solo le ostetriche. Monopolio, solo io. Perché sono professionista di questo. No, mi spiace. E quindi di emozioni, di educazione, di politica siamo autorizzati a parlarne tutti. Di psicologia soprattutto per liberarcene, come ci ha detto Vannini, perché la psiche è il nostro problema, l'ego è psiche. Finché siamo nella psiche siamo nell'ego, quindi i conflitti sono così, quindi ci vuole un gran primo luogo per uscire dai problemi, grande senso d'umorismo. E questo è il senso della salute, perché se voi vi viene da ridere, vi siete incazzarvi, vuol dire che vi siete già un po' dissociati, perché sto facendo il ritratto dell'essere umano comune. E quelli che si scandalizzano, no? Perché uno parla male di qua di là, ma stai scherzando, di cosa vi scandalizzate? Quindi, dato questo per presupposto, è chiaro perché stiamo facendo questo lavoro dentro qua. Perché una persona che ha l'idea di aiutare qualcun altro senza essere integro, cos'è? È onesto? No, non lo è. Ma siccome a posto facilmente non lo sarà mai, è meglio che sappia di come è combinato e quindi se si mette in questa posizione capite bene che è un gran cialtrone. Se le mette così,